E allora bene, di nuovo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, e questo è Silenzio Assordante. Vi abbiamo parlato nella prima corrispondenza un po' della situazione in Valsusa e delle iniziative che si stanno prendendo sul territorio a difesa, e tra l'altro c'è un bel po' di fermento lì, occorrerà forse spostarsi nonostante tutto. E poi abbiamo fatto un collegamento con la Tunisia, vi abbiamo parlato della situazione nel centro di espulsione di Ponte Galeria e un po' anche di quello che è il viaggio che sta riguardando le persone che arrivano dalla Tunisia, i diversi centri, campi che sono costrette ad attraversare in vista poi di un'espulsione. E avevamo ragionato un po' questa prima puntata del 2021 per fare un po' un aggiornamento anche sul carcere. Siamo in corrispondenza con una compagna che cura la trasmissione Battiture. Ciao. Ciao a tutti e tutte. E allora bene, noi abbiamo chiuso il 2020 con un giro sulle carceri, sulle galere, tenendo al centro le voci di cinque detenuti che da Ascoli Piceno raccontavano quello che è successo dal momento della rivolta nel carcere di Modena, attraverso un esposto che ha avuto un eco sul chiudere di quest'anno, a quasi 10 mesi di distanza dai fatti di Modena e non solo. Insomma, con te molto spesso siamo riusciti insomma a raccontare la gravità di quanto accaduto in diverse carceri del paese, dove sicuramente quanto accaduto a Modena assume la pesantezza anche delle morti che ci riguardano. E con te insomma intendiamo aprire quest'anno in un momento in cui escono le denunce, escono i racconti, si riesce un po' anche come dire, a non farne casi isolati come è accaduto per Santa Maria Capua Vetere. Siamo anche però in un momento in cui la politica tutta, anche quella dei garanti, sta assumendo un'unica voce, quella dei vaccini per le persone detenute e per chi lavora in carcere, rivendicazione ben differente da quelle che a marzo hanno portato le proteste in carcere, mentre il governo è ben intenzionato insomma ad aumentare la capacità detentiva e insomma è abbastanza incalzante sull'apertura di un nuovo carcere, almeno sembra in un sito come Assulmona. Lascio a te un po' la parola, io ho fatto una breve introduzione, ma se vuoi andare nello specifico di diverse situazioni, ben venga, ecco. Sì, in realtà già hai toccato tantissimi punti. Ci sarebbe molto da dire anche riguardo Modena, perché purtroppo proprio oggi, stamattina, è notizia, è uscita su uno dei soliti quotidiani nazionali, che pare che l'autopsia sul corpo di Piscitelli sia chiusa. E insomma, e di nuovo vergognosamente ritorna questa versione della morte per overdose. Quindi è una vicenda che già così, come giustamente dicevi tu, è pesantissima, pesano questi morti tantissimo, non riusciamo a dimenticarli, ma pesa tantissimo anche tutto quello che sono le bugie, le falsità che continuano ad essere raccontate su questa vicenda, che quindi purtroppo sarà ancora molto lunga. E in tutto questo, come giustamente dicevi tu, il clima generale è ancora molto difficile nelle carceri. La questione, diciamo, la questione prioritaria continua a restare il pericolo di vita che incombe sulle persone detenute, perché il Covid non è affatto superato, anzi tutt'altro. Infatti anche i dati ufficiali, che gli ultimi sono del 5 gennaio se non ricordo male, comunque parlano ancora di centinaia e centinaia di contagi. Pochi giorni fa c'è stato il 13° morto di questa seconda ondata di Covid in ospedale, una persona detenuta che era stata appunto ricoverata in ospedale perché malata di Covid. E la cosa che a me sembra più grave di questo periodo è che in tutto questo clima drammatico e questa situazione drammatica che si sta vivendo, se prima delle vacanze, insomma del periodo di Natale, in qualche modo le parole d'ordine continuavano ad essere quelle che arrivavano dall'interno delle carceri, e quindi la richiesta di amnistia e indulto, e in qualche modo erano state, anche se diciamo con molta difficoltà, ma anche almeno una minima parte di tutto quello che ruota attorno al mondo del carcere, le associazioni, parte della politica, le persone che normalmente in qualche modo discutono di questo, sembravano aver abbracciato questa richiesta più che legittima che veniva dall'interno per questioni di tutela sanitaria, e quindi si parlava di amnistia e indulto. Improvvisamente adesso queste parole sono scomparse dai media, dalle richieste dei politici, con una virata improvvisa, e tutto ciò che viene chiesto è che invece la vaccinazione sia in via prioritaria destinata alle persone detenute. Questo cambiamento di rotta è stato veramente bruschissimo. Poco prima del Natale, quello che è successo è abbastanza inspiegabile, poco prima delle vacanze natale, perché anche un numero consistente di persone detenute all'interno, di persone fuori, avevano anche aderito allo sciopero della fame a staffetta proposto dai radicali, ma c'è stato questo incontro tra Rita Bernardini e il premier Conte a porte chiuse, di cui molto poco si è riuscito a sapere. Io ho cercato di seguire anche le conferenze stampa, le rassegne stampa che sono uscite dopo. Sembrava Rita Bernardini si era dichiarata molto soddisfatta di questo incontro, perché aveva detto che aveva trovato il premier preparatissimo su quella che era la situazione delle carceri italiane, molto attento, molto preparato, e infatti di lì a poco prima del Capodanno Conte ha fatto anche delle visite, è andato a visitare alcuni penitenziari, due penitenziari, Re Bibbia e Poggio Reale, quindi spostandosi anche a Napoli. Il risultato di questi incontri, di queste visite poi nelle carceri, è stato che non c'era nessun tipo di emergenza Covid all'interno delle carceri, dichiarazioni ufficiali di Conte, non c'era assolutamente nessun allarme, niente di cui preoccuparsi. Nelle stesse ore in cui queste erano i titoloni di giornale, erano le cose che venivano dette a strombattuto, in realtà tra molte parenti cominciava per esempio a circolare la voce di un focolaio a Re Bibbia. Quindi nello stesso momento in cui la politica ufficialmente parla di nessun allarme nelle carceri, lo stesso penitenziario che era stato visitato da Conte ed è in realtà un focolaio di coronavirus, come si è saputo poi il giorno di Capodanno e nei giorni successivi, infatti è stato anche poi dopo pubblicato, anche se come trafiletti, come notizia così un po' di stramacchio, in realtà proprio lì dove Conte si era recato e aveva detto non c'è nessun allarme, era invece un focolaio di coronavirus. C'era, cioè, un'assurdità incredibile, assurdo anche come sia nato questo focolaio a Re Bibbia Nuovo Complesso. È nato perché alcune persone sono state trasferite lì da Sulmona, dal carcere di Sulmona, che per tutto fine novembre, tutto il mese di dicembre, è stato uno dei focolai più importanti che hanno attraversato l'Italia. In un momento in cui di emergenza sanitaria si dice che i trasferimenti dovrebbero essere bloccati, invece noi sappiamo bene che i trasferimenti, laddove devono essere punitivi, laddove devono servire agli istituti penitenziari, avvengono, e avvengono anche in gran parte. Questi trasferimenti avvengono anche senza nessun tipo di tutela, quindi da un focolaio come era il carcere di Sulmona, persone evidentemente positive sono state trasferite e hanno portato il virus altrove. Così come parlare del fatto che non ci possa essere allarme in un carcere come Poggio Reale, che voglio dire è noto un po' a tutti e tutte la situazione di Poggio Reale, già normalmente quale sia, le condizioni di sovraffollamento, ma anche proprio le carenze che ha la struttura stessa, nonostante cerchino ogni tanto di fare qualche lavoro di ristrutturazione in vari padiglioni, ma è una struttura molto carente, anche dal punto di vista igienico-sanitario, quindi visare un carcere del genere, avere il coraggio secondo me di dire che non ci sia alcun tipo di allarme all'interno delle carceri di Covid o altro, è veramente un'assurdità. Ed è così da allora che le parole d'ordine non sono state più amnistia e indulto, come ripeto, da marzo alla fine era ciò che giustamente veniva richiesto dall'interno, ma è diventato vaccinazione prioritaria, quindi quello che viene richiesto dai politici, passando alle figure di cui parlavi anche tu prima come garanti, le associazioni che lavorano all'interno del carcere, la richiesta è che ci sia una vaccinazione. Vaccinazione, tra l'altro, nessuno ovviamente come sempre interroga le persone direttamente, diciamo, interessate dalla cosa, nessuno chiede alle persone detenute se effettivamente per loro la vaccinazione è una priorità, mentre invece chi lo fa sa bene che non è questa ovviamente la priorità delle persone detenute, anzi molte parenti mi hanno anche in parte riferito che hanno paura che questo poi possa trasformarsi in una sorta di prova di massa rispetto ad alcuni vaccini di cui non si conosce ancora bene le possibilità, diciamo, dal punto di vista terapeutico. Allora, siccome hai fatto riferimento al caso di Re Bibbia, che poi appunto è stato anche confermato sugli organi, insomma, di stampa ufficiale, a quanto ne sappiamo, almeno da informazioni che ci sono arrivate in queste ore da chi ha parenti nel carcere di Regina Coeli, sembrerebbe che la situazione sia grave anche lì, che ci siano continui e repentini spostamenti all'interno della struttura che non fanno in modo assolutamente di proteggere le persone dal contagio, che stiano trasferendo in una sezione tutte le persone positive, ma che permangano poi in questi spostamenti casi di persone positive al contagio anche in altre sezioni, e che quindi la situazione da qui a brevissimo si andrà ad aggravare enormemente anche nel carcere di Regina Coeli. Sì, ma infatti per questa gestione dissennata che c'è, la situazione in generale non può far altro che peggiorare, cioè non ci si può aspettare che questo virus all'interno delle carceri sparisca così. Un altro esempio per me eclatante è per esempio la questione del carcere di Tolmezzo, cioè in questi giorni si sta riprendendo a parlare di quella che è la situazione, un focolaio terribile che c'è stato fino a pochissimo fa, cioè stiamo parlando del fatto che su 203, se non ricordo male, persone detenute in quel carcere, più di 160 erano risultate positive al coronavirus nel mese di dicembre. Ed in questi giorni si torna a parlare del carcere di Tolmezzo, perché è stato presentato, sono stati presentati degli esposti a due tribunali, il Tribunale di Roma e il Tribunale di Bologna, da degli avvocati e delle avvocate che hanno, diciamo, fatto presente tutte quelle falle della gestione e anche molte altre di cui stiamo parlando, come per esempio ovviamente la mancanza di protezione, di prevenzione, la mancanza di sanificazione, oppure la non capacità di separare le persone positive da quelle non positive e così via. Cioè in questi giorni si comincia a parlare di queste cose quando sono mesi che le parenti delle persone detenute all'interno riportano, cercano in tutti i modi di far sapere quello che viene loro detto dalle persone detenute all'interno, cioè appunto tutte queste difficoltà, le carenze igienico-sanitarie, la mancanza di dispositivi di protezione, il fatto che non ci sia separazione tra persone positive e persone negative. Tutto questo adesso se ne parla anche con grande scandalo, perché il problema è che sono stati, come dire, la possibilità di contagio è stata estesa anche agli avvocati e alle avvocate che in questo periodo, quindi senza sapere, hanno fatto visita alle persone detenute e nonostante trovassero a volte anche persone che mostravano dei sintomi, queste persone detenute riferivano che la loro era solo influenza stagionale, perché questo era stato a loro detto dall'area sanitaria del carcere. Quindi lo scandalo è che sarebbero stati esposti alla possibilità di contagio anche avvocati e avvocate, rimarcando ancora una volta che le vite umane non hanno tutte lo stesso valore. Ci sono vite umane di serie A e poi ci sono quelle che possiamo anche scartare. Se non sbaglio, il primo a raccontare la situazione a Tolmezzo, penso anche con una denuncia, è stato proprio un detenuto del 41. Esatto, infatti proprio questo stavo dicendo. E in questi spazi non si sottolinea che le poche cose che sono state possibili all'interno di quel carcere ottenere, come ad esempio gli stessi tamponi, sono stati ottenuti grazie al coraggio delle persone che erano dentro, che non hanno mancato di denunciare, di protestare, di entrare in sciopero, di fare battiture in quello che è un carcere tra l'altro di massima sicurezza. Quindi qualcuno ci dovrebbe spiegare come mai per mesi hanno cercato di farci bere la bufala enorme, che non c'era posto più sicuro dal contagio rispetto al 41 bis o all'alta sicurezza. E quello che è un carcere di massima sicurezza è diventato un focolaio terrificante. Quindi anche il racconto che si fa poi di queste, che sono sicuramente realtà, la mancanza di diagnosi, la mancanza di tamponi, un'area sanitaria non solo incompetente ma anche assassina, che ha il coraggio di fronte a persone che mostrano dei sintomi di continuare a ripetere che si tratta di un'influenza stagionale e null'altro, senza fare tamponi. Tutte queste sono sicuramente cose gravissime, ma quel poco che si è riuscito ad ottenere per evitare di avere, nonostante lì ci siano state appunto centinaia di persone contagiate e purtroppo anche una persona che ha perso la vita per questa gestione dissennata, quel poco che si è riuscito ad ottenere affinché non morissero anche altre persone è stato grazie alle proteste delle persone che erano dentro, che anche per far ricoverare delle persone ammalate, sintomatiche gravi, che avevano bisogno di cure gravi, terapeutiche in ospedale, hanno protestato e sono riuscite ad ottenerlo così. Fai bene a sottolineare questo aspetto, anche perché, ecco, lo dicevamo in apertura della corrispondenza con te, anche sulla vicenda di Modena, leggendo un po' di comunicati sparsi, che poi è l'unica voce autorevole, non da queste parti ovviamente, però quella dei sindacati di polizia penitenziaria sulla situazione dentro le carceri, per esempio si parlava molto del protagonismo delle persone immigrate durante la rivolta di Modena, e facevano un chiaro riferimento al fatto che immediatamente i rivoltosi erano stati espulsi. Questo un po' per fare anche da collegamento a quanto ci raccontava la corrispondenza precedente, però insomma silenziare, levare di torno le persone anche a fronte di fatti gravissimi come per esempio il contesto di Modena, e mettere a tacere in qualsiasi modo la voce dei detenuti, sembra che abbia funzionato parecchio. Non so se insomma un po' tutte e tutti quanti ricorderanno il buio che calò sulla situazione dentro le carceri più o meno da metà aprile in poi, fino a che non fu un po' l'inchiesta su Santa Maria Capua Vetere almeno ad accendere i riflettori su quel fatto specifico e nulla più. Nel frattempo ovviamente testimoni di fatti violenti, di torture, sono stati magari trasferiti, minacciati, ci sono parecchi processi aperti nei confronti di persone detenute che hanno partecipato a delle proteste. Davvero, tra l'altro, non so, facevo questa considerazione tempo fa, che magari fra tanti anni, quando queste persone inizieranno i processi, verrà a galla davvero la realtà assassina delle galere di questo paese, però nel frattempo insomma lo Stato gode di una tranquillità abbastanza grande per operare in maniera appunto criminale. In questo senso, secondo me, andrebbe anche evidenziato il fatto che tante delle persone che hanno partecipato alle proteste con la rivendicazione di amnistia e indulto, o di mandare almeno quantomeno ai domiciliari parte delle persone costrette nelle galere, sono persone che magari non avevano neanche la possibilità di accedere a questo tipo di misure, e che però hanno scelto di lottare perché era l'unica modalità per non morire di Covid in carcere nel silenzio totale, ecco. Ecco perché suona un po' male la faccenda vaccini gridata al posto delle persone detenute, ecco. Sì, suona molto male, secondo me, anche io facevo lo stesso tipo di riflessione riferita a questo momento. Secondo me in questo momento stiamo per entrare in un altro momento, tra virgolette, di buio molto forte, come quello di cui tu parlavi prima, perché è ovvio che nel momento in cui tu ti ritrovi diciamo da una dimensione in cui hai anche dei personaggi tra virgolette famosi che si espongono per penso all'appello che c'è stato che ha raccolto anche Veronesi, Saviano, che era proprio basato su amnistia e indulto. Nel momento in cui da quello tu passi a delle richieste, ad appelli che riguardano la vaccinazione, stai già discendendo una china che secondo me porta verso quel buio. Quindi in questo momento secondo me è ancora più importante portare diffondere il più possibile la voce delle persone che sono dentro, perché loro invece continuano a lottare e continuano a fare le richieste giuste, quelle che a loro servono per salvare la vita, e in qualche modo contrastare anche questa narrazione all'esterno, questo racconto unico che inizia a legarsi, che lega tutti, fa contenti tutti, dal personale degli istituti penitenziari ai garanti, ai politici e tutti, abbassando, diciamo, portando alla richiesta di vaccinazione il livello, diciamo, delle richieste. Quindi secondo me è importante invece continuare a contrastarlo. Eh sì, non ne facciamo neanche, diciamo, un discorso appunto anche fortemente ideologico, non so come dire, c'è da prendere sicuramente in considerazione il fatto che il carcere era una merda anche prima di questa pandemia, e che quindi riportare appunto il discorso a vaccinazione, tra l'altro obbligatoria a quel punto, che dovrebbe riguardare le persone detenute, significa riportare il carcere alla normalità di sempre, quindi al silenzio di sempre, tra l'altro con il potenziale in più per il quale il sovraffollamento si combatte con nuove strutture detentive. Sì, per cui stanno ben pensando di stanziare fondi. I soldi per costruire nuove carceri o per armare non finiscono mai, stranamente, quindi non si sa perché. Comunque io credo che non sia mai ideologico, diciamo, portare la voce di chi vive determinate situazioni, le richieste di chi vive determinate situazioni. Quindi secondo me è semplicemente cercare di sostenere il più possibile, di far risuonare il più possibile le voci che arrivano da dentro, mi sembra la cosa più utile e più importante che si possa continuare a fare. Allora, non so se vuoi aggiungere altro, questa volta ti abbiamo risparmiato una serie di battute messe in mezzo, hai visto, ci siamo comportati da brave persone, è raro. Potresti approfittare. So che non mancheranno. Appena attacchi parleremo male di te. Infatti, grazie. Grazie dello spazio. Grazie a te. Allora ci sentiamo la prossima settimana. Grazie. Ciao a tutte e tutti. Ciao, ciao. E allora, bene.